come noi altri che il surplus non ce l'abbiamo e quindi paghiamo un differenziale spaventoso dal punto di vista della crescita, e quindi siamo uniti dalla camicia di forza dell'unità monetaria e non riusciamo a far muovere i fattori come potremmo farli muovere se avessimo delle diverse monete. Questo non vuol dire che bisogna uscire dall'euro, no, vuol dire che bisogna immettere liquidità, finirla con la politica dell'austerità per fare in modo che si supplisca agli sbilanciamenti delle politiche commerciali che dividono paesi creditori e paesi debitori, e che quindi la si smetta con l'egemonia tedesca e con questa signora che va a fare delle visite turistiche in Germania e in Portogallo, che mi ricordano molto quelle che faceva un altro signore coi baffi in un periodo terribile, quando la Germania era convinta di fare un blitzkrieg. Il blitzkrieg non è riuscito, voglio dire, quindi siamo in una crisi terribile e gli investitori sbagliano tantissimo a mettere i soldi lì. E mi sembra elementare, Watson, basta ragionare con la propria testa e non con la testa di Grilli, questo mi pare evidente. Di Grilli o di Grillo, non ho capito. Di Grilli. No, perché se non mettiamola in politica. Giovedì 15 novembre si è tenuta a Milano la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013 della Bocconi, alla presenza del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e del Premier Mario Monti. Nell'occasione è stata inaugurata la Tommaso Padoa Schioppa Visiting Professorship, che è stata finanziata dalla BCE per ricordare uno dei più illustri alunni della Bocconi, tra i padri fondatori dell'euro e membro del Comitato Esecutivo della BCE dal 98 al 2005. È importante capire che la stabilità finanziaria è nell'interesse di tutti e in primis dei paesi creditori, ha detto il governatore della BCE Mario Draghi nel corso dell'inaugurazione. Sentiamolo. È importante capire che la stabilità finanziaria all'interno dell'area dell'euro è nell'interesse di tutti, ma in primis dei paesi creditori che hanno le esposizioni maggiori. Quanto maggiore la sfiducia, tanto più sono i flussi di capitale che vanno verso alcuni, un paese in particolare, ma insomma i paesi che sono maggiormente creditori. In questo modo tanto più aumenta la loro esposizione nei confronti degli altri paesi. Questi sono rischi, ma diventano certezze nel caso di frattura dell'area dell'euro, diventano vere perdite. Quindi l'assicurare la stabilità finanziaria è in primis nell'interesse dei paesi creditori. È nell'Unione che i paesi europei possono tutelare la loro specificità, ha continuato Draghi. È essenziale che tutti i soggetti che contribuiscono all'ampio e articolato percorso di riforma dell'Europa mantengano gli impegni presi. Dobbiamo procedere lungo questa linea con calmo pragmatismo, chiedendoci quali siano i requisiti minimi per completare l'Unione economica e monetaria. Sono tutti alla nostra portata, comprese le riforme fiscali e le politiche strutturali per la competitività e la crescita. Lungo il cammino dobbiamo farci guidare dal principio secondo cui nessun paese è legittimato a condurre politiche che danneggino gli altri membri della comunità di cui fa parte. La costruzione di un'architettura istituzionale europea basata su questo fondamento non risponde soltanto a un'istanza di responsabilità. Senza la condivisione della sovranità nazionale a livello europeo, la stessa sovranità dei singoli Stati è in pericolo. Questa è la prima lezione della crisi per noi europei. Non si tratta solo di economia e di finanza. Possiamo, con Zygmunt Bauman, estenderla ad ambiti assai più ampi. Ha scritto Bauman: la casa europea non va a detrimento delle culture nazionali, ma provvede a una sorta di tetto comune a tradizioni, valori, differenze locali. E il paradosso è che ogni singolo paese è molto più a rischio di perdere la sua identità specifica se si espone senza protezione, cioè senza questo scudo europeo, alle forze globali che sono violentemente e spudoratamente sovranazionali. Ignorano i tempi e le specificità locali. Il governatore della BCE ha poi attribuito all'azione dei governi nazionali il compito di ritrovare la credibilità. Sentiamo. Si sono sventati esiti potenzialmente rovinosi della crisi, si è guadagnato tempo prezioso, ma non infinito. La BCE però non può sostituirsi all'azione dei governi nazionali, né sotto il profilo dell'efficacia della politica economica, né soprattutto sotto il profilo della legittimità democratica. In ultima analisi spetta ai governi il compito di dissolvere definitivamente le incertezze che persistono nella percezione dei mercati e nei timori dei cittadini. L'obiettivo finale è l'unione politica, un'Europa stabile e integrata con un destino comune. Ci vorrà molto tempo lungo un percorso incerto, ma nel frattempo sarebbe un errore non agire. E infine, ha affermato Draghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi, il consolidamento deve essere basato sul calo della spesa corrente e non sull'aumento delle tasse. L'attività economica continua a indebolirsi e gli spread continuano a crescere, il che pone l'accento sulla forma che deve avere il consolidamento fiscale ideale, cioè quello che riduce il deficit e il debito con le minori conseguenze negative sul prodotto di un paese. L'evidenza, presa in rassegna anche in un recentissimo articolo del professor Alesina, l'evidenza prevalente indica che esso deve essere centrato su riduzioni di spesa corrente e non su aumenti di tasse. Anche chi non condivide questa impostazione è però d'accordo sul fatto che è essenziale che il processo sia recepito come credibile, irreversibile e strutturale, perché abbia effetto sugli spread sovrani e che le condizioni di stabilità dei prezzi e dei mercati finanziari siano tali da non ostacolare il consolidamento fiscale. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.